GR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia. Referendum, opinione a confronto, il mondo politico regionale rispecchia le tendenze nazionali tra i sostenitori del sì e del no e il fronte dell'astensione. Traffici illeciti di rifiuti, la regione non è immune, l'allarme da un ufficiale dei carabinieri esperto in reati ambientali che ha parlato ai ragazzi in un incontro a Cordenons. Bollette meno care, inflazione in discesa, luce e gas, i fattori determinanti sull'andamento dei prezzi al consumo registrati dagli uffici statistica dei comuni di Trieste e di Udine. A Udine l'amministrazione stanzia 1,5 milioni di euro per favorire l'apertura di nuove attività economiche e lo sviluppo di commercio e servizi di prossimità. Fine settimana con tempo molto variabile sulla regione. Sabato sereno in mattinata e rovesci nel pomeriggio su montagna e pianura. Domenica rovesci sulla costa la mattina e il pomeriggio più sulla montagna. Temperatura di poco inferiore alla media del periodo. I testimonial dell'associazione Mutilati e Invalidi, 23 persone vittime di infortuni opportunamente formate, portano nelle scuole la loro testimonianza e la cultura della sicurezza. Spiegare la Costituzione ai ragazzi. Oggi i neo-diciottenni di Pordenone hanno ricevuto copia della nostra carta fondamentale con due docenti universitari che hanno parlato con loro descrivendo perché è così importante. Confronto sul giornalismo comincia a Trieste Link, il festival dell'informazione. 3 giorni di confronto sui temi chiave di un mondo che cambia e sui modi di raccontarlo. 12:31 minuti 47 secondi in questo istante, ancora buongiorno da Livia Liberatore e Andrea Vardanega che condurranno questa seconda edizione del giornale radio regionale. I traffici illeciti di rifiuti sono una fonte di reddito per le grandi organizzazioni criminali e la nostra regione non fa eccezione, se ne è parlato in un convegno a Cordenons dedicato alla sensibilizzazione degli studenti sui reati ambientali. Gestione dei rifiuti, illeciti ambientali, ecoreati, temi su cui sensibilizzare anche ragazze e ragazzi che possono diventare antenne sul territorio, protagonisti della salvaguardia del loro ambiente. Se ne è parlato stamani all'Auditorium Aldo Moro di Cordenons in un incontro dedicato agli studenti e alle studentesse del Liceo Galvani, organizzato da Ecosinergie, Società di San Vito al Tagliamento Partecipata di Ambiente e Servizi e dall'Associazione Fare Ambiente, con la viceministra per l'ambiente Vania Gava, il presidente della commissione d'inchiesta sugli illeciti ambientali Jacopo Morrone, il tenente colonnello dei carabinieri Enrico Risottino, a capo del gruppo per la tutela ambientale di Venezia, con competenza su Veneto, Trentino Alto Adige, Emilia Romagna e Friuli Venezia Giulia. Il comandante Risottino. Noi siamo attenti a tutte quelle che sono chiaramente le organizzazioni criminali, anche di stampo mafioso, che fanno del business dei rifiuti la loro attività. Al momento nel Friuli non ci sono situazioni di questo tipo, però ci sono numerose organizzazioni che si occupano chiaramente di traffici illeciti di rifiuti. Il Friuli, proprio per la posizione geografica, è una via chiaramente di accesso ai paesi dell'est e quindi quale miglior posizione, proprio quella del Friuli Venezia Giulia, per trasportare i rifiuti verso l'estero, attività che noi con le nostre indagini abbiamo avuto modo di accertare essere uno dei business appunto delle organizzazioni. Cordenons, Natascia Gargano, TGR, Friuli Venezia Giulia. E adesso il referendum dell'8 e 9 giugno, i 4 quesiti sul lavoro e quello sulla cittadinanza agli stranieri dividono le forze politiche. Al fronte del sì si contrappongono non solo le forze che invitano a votare no, ma anche quelle che, volendo mantenere le regole in vigore, propongono ai cittadini di non andare alle urne, un confronto che si ripropone dal piano nazionale a quello locale. I referendum dell'8 e 9 giugno si avvicinano, il dibattito politico si fa più acceso. 4 quesiti riguarderanno il lavoro, il 5 la cittadinanza. Le posizioni dei partiti si distinguono tra sì, no e chi invita a non andare a votare per far fallire il referendum che deve raggiungere il quorum del 50% per essere considerato valido. Tra le formazioni politiche più esposte verso il sì sui quesiti sul lavoro c'è il Movimento 5 Stelle, che invece lascia libertà di voto sul quesito che renderebbe più semplice ottenere la cittadinanza. L'esponente 5 Stelle Elena Danielis. Noi siamo il paese in Europa che tratta peggio i lavoratori. Siamo il paese in Europa dove gli stipendi sono più bassi, siamo il paese in Europa dove gradualmente negli ultimi 20 anni i diritti dei lavoratori sono diminuiti invece di aumentare e bisogna dare più garanzie. Nell'opposizione non c'è una linea comune. Per i 5 sì, Alleanza Verdi-Sinistra, la segretaria del Partito Democratico Elly Schlein, posizione che non convince l'ala riformista del PD. Azione e Italia Viva sono per il sì alla cittadinanza e per il no sul lavoro. Più Europa dice sì alla cittadinanza e al quesito sulla responsabilità civile degli appaltatori in caso di incidente. Nel centrodestra è per i 5 no solo Noi Moderati, mentre maggiori esponenti di Forza Italia, Lega e Fratelli d'Italia hanno indicato la strada dell'astensione. Walter Rizzetto, presidente della Commissione Lavoro della Camera, Fratelli d'Italia. Nella nostra storia recente addirittura si pagava la gente quasi per farla stare a casa sotto questo punto di vista. È per quello che dico che prima dei diritti serve avere un lavoro. Oggi viviamo in un momento tutto sommato favorevole sotto questo punto di vista. Quando parliamo di molto tempo indeterminato che viene applicato lungo la filiera e il substrato del mercato del lavoro, che di fatto abbatte la precarietà, ecco che noi parliamo quotidianamente di diritti dei lavoratori. Antonio Di Bartolomeo, TGR Friuli Venezia Giulia. Le oscillazioni delle bollette elettriche e del gas, anche questo mese, sono il fattore determinante sull'andamento dell'inflazione nelle due città campione della regione. Il dato congiunturale, cioè l'andamento dei prezzi mese per mese, scende da più 0,6 a più 0,2% a Trieste e da più 0,3 a meno 0,1 a Udine, il che significa che il costo della vita nel capoluogo friulano è leggermente calato. Su base tendenziale, cioè guardando l'andamento dei prezzi da un anno all'altro, il tasso di inflazione risulta invece in calo a Trieste dal 2,4 al 2,1% e in crescita a Udine dall'1,9 al 2,1%. Sull'andamento congiunturale, come abbiamo detto, influiscono le oscillazioni delle bollette che dopo l'impennata registrata un mese fa, secondo i dati degli uffici statistica, risultano in calo. A Trieste meno 7,1% l'energia elettrica, meno 9,2% il gas e meno 4,5% il gasolio per riscaldamento, dati sostanzialmente uguali a Udine. Sono comunque bollette che rimangono molto più pesanti di un anno fa, di oltre il 12% quello della luce e di oltre il 7% quello del gas. Quanto ad alimentari e bevande analcoliche, in un mese si registrano aumenti di 7 decimi di punto a Udine, mentre la situazione è sostanzialmente stabile a Trieste. Gli aumenti sul carrello della spesa rispetto al 2024 si attestano invece al 3,8% nel capoluogo friulano e al 3,3 in quello regionale. Il comune di Udine dà vita al Fondo Rilancio Economico, un investimento da 1,5 milioni di euro per agevolare le nuove aperture di attività economiche e favorire lo sviluppo del commercio e dei servizi di prossimità. Dal 2026 chi deciderà a Udine di aprire in centro o in periferia un'attività economica o servizi di prossimità potrà beneficiare di un contributo a fondo perduto pari al 25% delle spese per l'acquisto di arredi, macchinari o sistemi informatici. Il comune ha stanziato 1,5 milioni di euro. Il fondo si chiama Rilancio Economico. Ogni negozio potrebbe beneficiarne fino a 50.000 euro, con effetto leva stimato di oltre 3.600.000 euro in investimenti privati. Il bando è in fase di definizione e sarà pubblicato entro luglio. Positivo il commento delle associazioni di categoria che indicheranno, assieme ai rappresentanti di quartiere, le varie esigenze. 900.000 euro saranno destinati ai quartieri periferici, 6 su 9 quelli interessati, individuati grazie a uno studio che ha rilevato dove si annidano le maggiori fragilità nel tessuto urbano. Punti in più nei bandi li avranno gli investitori locali. Alessandro Venanzi, vice sindaco e assessore al commercio di Udine. Una premialità per quegli imprenditori che sono di quel luogo e che vogliono generare economia e imprenditorialità in quel quartiere, quindi un pacchetto importante che vuole restituire alla nostra comunità quel ruolo centrale, commerciale e emporiale che la città di Udine ha sempre avuto. Il centro storico riceverà 400.000 euro per favorire aperture nei locali sfitti. 100.000 euro andranno a sostenere l'acquisto di servizi per famiglie e bambini. Infine, altri 100.000 euro per nuovi arredi urbani e infrastrutture per alcune piazze cittadine. Nei quartieri i contributi sono finalizzati a far aprire. In centro, invece, per aiutare i commercianti e artigiani a stare in attività. Guido Caufin, manager del distretto del commercio di Udine. Perché questo? Perché mentre oggi l'imprenditore tende a non investire per aprire delle nuove attività nei quartieri periferici, il centro storico nelle vie magari che sappiamo già quali sono tende ad essere un po' prudente, ma quello che preoccupa di più sono gli affitti, magari il costo del personale per stare aperto più ore, quindi è un sostegno più mirato al conto economico. Udine, Lillo Montalto Monella, TGR Friuli Venezia Giulia. Cielo sereno su pianura e costa, da poco nuvoloso a coperto in montagna, le temperature registrate alle 11, Trieste 16 gradi, Gorizia e Pordenone 15, Udine 16, Sappada 7, Treviso 11, Forni di Sopra 12, Tolmezzo 17, Sull'Ossari 4 gradi, sullo Zoncolan 5,5, a Lignano abbiamo 16 gradi e 5 decimi e a Grado 17 gradi. E vediamo ora le previsioni del tempo per il fine settimana con Giuseppe Visalli dell'ARPA regionale. Buongiorno a tutti. Sul Friuli Venezia Giulia il tempo continua ad essere instabile a causa della presenza di una depressione sull'Europa orientale che determina l'afflusso di correnti fredde, soprattutto in quota di origine artiche. Quindi nel corso dei prossimi giorni la caratteristica principale del tempo sulla regione sarà la variabilità. Per quanto riguarda appunto il fine settimana, nella giornata di sabato avremo una mattinata con cielo sereno poco nuvoloso, poi nel pomeriggio si osserverà un aumento delle nubi con rovesci e temporali sparsi che interesseranno la zona montana e poi probabilmente si estenderanno alla pianura e con meno probabilità anche alla costa. Nel corso del pomeriggio e sera il cielo risulterà variabile su gran parte della regione. Temperature domani minime tra 6 e 9 gradi sulla pianura, tra 11 e 14 sulla costa, massime tra 19 e 22 gradi sulla pianura, tra 17 e 20 gradi sulla costa. I venti soffriranno deboli a regime di prezza. Domenica giornata molto simile, un po' più instabile perché già dalla notte fino al primo mattino si potranno verificare dei rovesci sulla costa, poi pausa dalle piogge nel corso della mattina, poi riprenderanno i rovesci nel corso del pomeriggio e della sera, ad iniziare dalla zona montana, si estenderanno alla pianura e anche alla costa. Nel corso della giornata il cielo poi risulterà da variabile a nuvoloso, soprattutto sulle prealpi e sull'alta pianura. Domenica temperature stazionarie con valori che risulteranno di poco inferiori alle medie del periodo. Poi inizio prossima settimana probabilmente si avrà un periodo un po' più stabile a causa dell'intensificazione del promontorio anticiclonico, poi probabilmente verso metà settimana nuovo peggioramento con rovesci temporali. Ristrutturare il CPR di Gradisca per garantire più sicurezza agli operatori delle forze dell'ordine impegnate nella struttura è quanto chiede il segretario regionale del SAP, Lorenzo Tamaro. Tamaro difende la funzione di CPR che a suo dire ospitano soprattutto pericolosi criminali in attesa di essere realmente rimpatriati nel loro paese di origine. Tuttavia, si legge in una nota, a Gradisca non basta più risistemare in maniera emergenziale e provvisoria i danni causati dalle continue rivolte e disordini. Occorre un progetto di ristrutturazione complessivo, punto di vista ribadito anche in un recente incontro con il prefetto di Gorizia. L'Associazione Nazionale Mutilati e Invalidi del Lavoro prosegue il progetto di formazione sulla sicurezza sul lavoro nelle scuole della regione, volto a diffondere la cultura della prevenzione e della responsabilità tra i giovani. Al centro di questa attività ci sono i 23 testimonial dell'ANMIL, che portano nelle aule le testimonianze dirette di chi ha vissuto sulla propria pelle le conseguenze di un incidente sul lavoro. Abbiamo parlato con uno di loro, Herbert Dalcin. Noi andiamo a testimoniare nelle scuole praticamente la sicurezza, l'importanza sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e quindi facciamo la formazione degli studenti con le nostre testimonianze in prima persona di cosa ci è successo nei nostri incidenti e poi facciamo delle domande aperte dove gli studenti possono interagire con noi, insomma. Che cosa vi chiedono? Noi innanzitutto vediamo se sono attenti quando raccontiamo le cose e gli chiediamo, secondo voi, nelle storie che avete sentito, quali protezioni ci dovevano essere, quali invece potevano essere aggiunte. Quando raccontiamo, nonostante è successo negatività, noi diamo positività, perché comunque, mi raccomando, state attenti, noi ci siamo rialzati e diamo a voi il modo di poter evitare certe cose. Lei per esempio che cosa racconta? Racconto praticamente del mio incidente successo nel luogo di lavoro in cui non avevo la visibilità per vedere il muletto che stava passando, mi hanno tranciato praticamente il legamento, testimoniando agli studenti questa cosa, ti dai animo, ti dai forza per aiutare anche altre persone, insomma. La realtà dell'edilizia popolare a Vienna sotto la lente di Ater Trieste e dell'assessorato alle infrastrutture della regione. Il presidente Mosetti e l'assessore Amirante nella capitale austriaco hanno visitato tra l'altro i quattro gasometri gasometri del quartiere del Simmering, che dopo la ristrutturazione ospitano appartamenti, uffici, centri commerciali e sale per concerti, e anche esempi più recenti di edilizia sociale con nuovi modelli di case studentesche e di abitazione che non rinunciano alla bellezza estetica o all'intrattenimento. L'esempio del social housing viennese, ha spiegato l'assessora Mirante, rappresenta un'esperienza virtuosa di come sia possibile coniugare qualità architettonica, sostenibilità sociale e pianificazione urbanistica in un'unica visione. Un'esperienza, ha detto l'assessora, che può e deve ispirare anche le nostre ATR, soprattutto in relazione all'edilizia residenziale pubblica convenzionata. Un progetto per realizzare a Manzano il centro divulgativo della sedia. Lo promuovono il Comune Friulano e il cluster Legno Arredo, che hanno firmato una convenzione. È la prosecuzione di un progetto partito con il rinnovo della sede legale del cluster e con il Centro Studi per Design e Sostenibilità. Il centro di divulgazione dovrà diventare una struttura che guarda alla storia del distretto e soprattutto al futuro di un territorio che impiega oltre 4.000 addetti ed esprime oltre 800 milioni di fatturato all'anno per il settore. Una struttura per promuovere il territorio con spazi capaci di accogliere creatività, design e cultura manifatturiera, ma capace anche di puntare su quello che, in una nota, viene definito il turismo business oriented. La Costituzione italiana regalata ai neodiciottenni è l'iniziativa promossa dal Comune e dalla Prefettura di Pordenone per gli studenti delle scuole superiori cittadine. L'evento si è svolto all'Auditorium Concordia di Pordenone con l'intervento di Dimitri Girotto, costituzionalista dell'Università di Udine, e di Paolo Moro, che insegna filosofia del diritto all'Università di Padova. Proprio a Moro abbiamo chiesto come si spiega la Costituzione ai ragazzi. La prima risposta che si può dare è che il testo della Costituzione è comunque un testo che è facilmente leggibile, scritto in ottima lingua italiana e quindi già da questo punto di vista richiama un principio che permane anche oggi, in cui siamo in un mondo di comunicazione molto diversa, in cui però è necessario imparare anche quali sono i principi e i metodi della comunicazione. Si scrive, si parla in modo diverso, ma è importante farlo anche con un buon linguaggio. E la lingua italiana è valorizzata nella Costituzione, per esempio l'ultimissima modifica fatta, in cui vi è stata indicata la parola sport, è stata indicata non con questo termine perché è inglese, ma proprio con attività sportiva. Secondo motivo è che richiama una serie di temi, di regole, di valori che presentano un carattere sempre attuale. Quindi nel mondo globale di oggi, largamente è impregnato di individualismo, di narcisismo, di tutela dell'autodeterminazione, tutela dei diritti, la Costituzione richiama i doveri di solidarietà sociale, quindi richiama principi che sono molto importanti oggi e che tecnicamente vanno anche in controtendenza. Una terza ragione, secondo me, è quella che la Costituzione è la legge fondamentale dello Stato, non è particolarmente lunga, contiene una serie di regole di carattere generale facilmente leggibili, apprendibili e fondamentalmente contiene una serie anche di temi e problemi che sono del futuro. L'esempio plastico è quello dell'articolo 9 sul tema dell'ambiente, che è stato recentemente modificato indicando proprio il tema dei diritti delle generazioni future, cioè il fatto che le generazioni future non possono essere compromesse dai comportamenti, diremmo così, di coloro che vivono il mondo di oggi. E questo indica un altro aspetto, secondo me, permanente, quindi direi conclusivamente che la Costituzione richiama ciò che permane. È una cosa che oggi purtroppo si dimentica spesso, e più che non ciò che è contingente, ciò che è alla moda. Trieste, Dario Ronzoni, TGR, Friuli Venezia Giulia. A Trieste comincia l'INC, il Festival del giornalismo di qualità, evento di apertura alle 17 nel padiglione allestito in Piazza Unità e chiamato l'INC Arena, che vedrà protagonisti Carlo Bonini, vice direttore della Repubblica, e Nello Scavo, inviato speciale di Avvenire, che si confronteranno sul tema del buon giornalismo con Maria Concetta Mattei, direttrice della Scuola di Giornalismo di Perugia. In contemporanea, nel Salone di Rappresentanza della Regione, l'incontro con Toni Capuozzo. Di nuovo alla l'INC Arena, alle 18 la consegna del premio Testimoni della Storia a Fabio Tamburini, direttore del Sole 24 Ore di Radio 24, e a seguire Domenico Quirico, che parlerà del tema Islam contro Occidente. Gli incontri di l'INC Festival andranno avanti fino a domenica. Alcuni lo chiamano il padre della nanomedicina, lui si definisce scherzosamente nonno dal momento che le sue ricerche, dopo più di 30 anni, sono ormai entrate in molti protocolli di cura. Lo scienziato udinese Mauro Ferrari, che vive e lavora negli Stati Uniti, porta stasera alla Rossetti di Trieste uno spettacolo musicale per ripercorrere la sua storia. L'ho intervistato Lorenzo Ghirlinzoni. Amore e ricerca, il motore di una carriera che dall'Italia è arrivata ai centri di innovazione scientifica più avanzati al mondo negli Stati Uniti, è Riconoscenza, lo spettacolo che vede protagonista sul palco Mauro Ferrari, pioniere della nanomedicina udinese, come il cantautore Piero Sidotti che lo accompagna nel debutto alla Rossetti di Trieste, occasione per fare il punto sulle nanotecnologie applicate alle terapie di cura. Sono cose che sono nate più o meno 30 anni fa, quando ero professore a Berkeley, e che adesso hanno dato luogo a decine e decine di farmaci che vengono utilizzati di routine in giro per il mondo, e farmaci, vaccini, diciamo che miliardi di dosi di nanofarmaci sono state somministrate a pazienti nel corso degli ultimi 10-15 anni, quindi ormai la nanomedicina è parte integrante del corredo terapeutico disponibile a centri oncologici e non solo, in medicina anche per le malattie infettive. Tra gli esperimenti su cui Ferrari ha lavorato, alcuni si sono svolti nello spazio. La riduzione della massa muscolare ossea, che purtroppo è associata ai viaggi di lunga durata in microgravità, che però ha una controparte anche nella medicina di tutti i giorni sul pianeta Terra, per esempio con l'osteoporosi o con la perdita di massa muscolare nei pazienti oncologici. Ferrari è forse l'unico corregionale ad avere conosciuto e lavorato con Elon Musk. È chiaramente una persona molto controversa, con aspetti positivi e negativi e chi non ce li ha, ma non c'è dubbio che sia assolutamente un fenomeno dal punto di vista della visione scientifica e della capacità di implementarla, con le sue implementazioni cambiando il mondo, speriamo, in maniera positiva. Lorenzo Ghirlinzoni, TGR Friuli Venezia Giulia. A Trieste stasera c'è anche la prima di Rigoletto, l'opera di Verdi va in scena sotto la direzione di Daniel Loren e nel ruolo principale c'è Amartushin Enkpat, un baritono di livello assoluto nel panorama internazionale che arriva a Trieste dopo aver cantato lo stesso ruolo alla Staatsoper di Amburgo ed essere stato Scarpia nella Tosca di Puccini alla Scala, solo per citare i suoi impegni più recenti. Lo spettacolo riprende con importanti modifiche e mantenendo la fedeltà al dettato verdiano, l'allestimento visto al Verdi un paio di stagioni fa è firmato da Vivian Hewitt. Lo spettacolo stasera comincia alle 20, repliche quotidiane in questo e nel prossimo fine settimana, e a fine maggio il Rigoletto verrà invece replicato a Udine. Cambiando totalmente genere, stasera a Pordenone c'è invece il concerto di Ermal Meta, impegnato nel suo nuovo tour nei teatri italiani, cominciato lo scorso marzo. Un concerto che, come ha spiegato l'artista, segue una formula intimistica, un pianoforte e poco altro, ha detto, suono, canto e mi racconto. Oltre ai suoi brani più noti, eseguirà anche canzoni inedite. Sul palco, insieme a lui, ci sarà il pianista Davide Antonio Pio, coautore dello spettacolo, inizio alle 21 al Teatro Verdi. Nel rosetto del Parco di San Giovanni a Trieste, invece, la seconda giornata della 14ª edizione di Rose, Libri, Musica, Vino, rassegna promossa dalla Cooperativa Sociale Agricola Monte San Pantaleone e dall'Università degli Studi di Trieste, che quest'anno approfondisce il tema del potere. Alle 15.30 una passeggiata negli edifici storici dell'ospedale psichiatrico. Alle 17.15 salirà sul palco la scrittrice Nicoletta Ramella Pezza, autrice di La botanica dei profumi. A seguire l'incontro su Come si esprime un desiderio, ultimo libro della scrittrice Odette Colpatt, che da anni si occupa di autismo, e quello con la vignaiola di Brazzano di Cormons, Elisabetta Bracco. Alle 20, infine, una passeggiata sulle tracce dei pipistrelli. Visite guidate al santuario di Castelmonte per scoprire alcuni luoghi del complesso normalmente non accessibili. Per conoscere meglio il profondo legame ultramillenario tra il santuario e il territorio circostante, nei fine settimana, venerdì, sabato e domenica, piccoli gruppi di persone, tre volte al giorno, alle 10, alle 11, alle 15, vengono accompagnati gratuitamente alla scoperta delle bellezze nascoste del borgo medievale e del santuario. Il punto di partenza, la cosiddetta casa casa dello Scaccino, che sta tra le due porte di accesso al borgo medievale e che funge da punto di accoglienza per pellegrini e visitatori. I visitatori potranno essere accolti in italiano, tedesco, inglese e sloveno. Come quadrilingue saranno pure i pannelli informativi, grazie ai quali i partecipanti potranno approfondire diversi temi legati a Castelmonte. Una notizia di basket prima di chiudere: stasera gara 3 del primo turno dei playoff promozione in Serie A. Cividale gioca sul parquet di Forlì e ha vinto le prime due partite. Se vince anche stasera, chiude la serie e va avanti. Palla a 2 alle 20:30. E con questa notizia chiudiamo il giornale, che è stato redatto da Livia Liberatore e Andrea Vardanega, che l'hanno anche condotta in studio, e Mauro Comina ha garantito la parte tecnica. In redazione ha collaborato Samantha Gon. Prossimo appuntamenti con i nostri notiziari: il TG delle 14 su Rai 3 e poi il GR delle 15, l'informazione regionale della Rai. Prosegue anche sul nostro sito rainews.it/tgr/fvg e sui nostri profili social TGR Rai FVG. A tutti ancora grazie per essere stati con noi e l'augurio di una buona giornata. Abbiamo trasmesso TGR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia.